fame il nostro ideale. Ascolta la voce di noi ribelli, orgogliosi del nostro stile. Ci stretti i capelli corti, tatuaggi sempre vista. E l'azione è la nostra lotta, meglio morto che servile. La repressione non ci piega, tu sei il primo della lista. Picchia duro chi ti odia, ovunque sempre nelle strade. Picchia duro chi ti odia, calci, pugni e staccate. Picchia duro chi ti odia, ovunque sempre nelle strade. Picchia duro chi ti odia, qualche fino in tribunale. Picchia duro, chi ti odia? Calci, pugni e sprangate. Picchia duro, chi ti odia?